Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. È partita da Arezzo l'operazione firmata dalle Fiamme Gialle che ha portato all'arresto di 6 persone e al sequestro di 30.000 capi di abbigliamento griffati, falsificati ma di buona fattura, che dalla Turchia venivano smerciati tramite grossisti compiacenti in mezza Europa. Gli arrestati sono un 53enne italiano da tempo residente in Germania che si occupava dello stoccaggio e dello smaltimento della merce una volta arrivata in Germania. 2 calabresi originari di Vibo Valentia, considerati molto vicini ai clan dell'Ndrangheta Anello Fiumara e Mancuso, e 3 napoletani. Le indagini sono partite dal sequestro di alcuni carichi effettuato dalla Guardia di Finanza, che da lì si è messa in moto per risalire a chi produceva e a chi commercializzava scarpe e capi di abbigliamento falsi ma di pregio. I finanzieri hanno individuato un giro organizzato che, dopo la produzione in Turchia, faceva arrivare la merce in Germania e Olanda, da dove veniva venduta anche in Austria, Italia, Spagna e Gran Bretagna. Secondo quanto emerso, i personaggi di spicco dell'organizzazione erano i 2 calabresi vicini alle cosche di 'Ndrangheta che, in 2 episodi avvenuti in Calabria, avrebbero utilizzato maniere violente per convincere gli acquirenti a comprare. Sempre in base alle risultanze delle indagini, i 2 si incontravano in locali aretini per pianificare le strategie future di azione. Elevatissimi margini di profitto, con capi che dai 14 euro iniziali arrivavano poi a costare cifre più che raddoppiate al compratore finale. In questo ambito 50 le persone indagate, tra cui 2 grossisti aretini e alcuni fiorentini, e 30 quelle monitorate dall'inchiesta che continuano ad andare avanti. Vi ricordo la mail alla quale spedire le vostre segnalazioni, sottotiro@radio24.it, e il mio blog Guardie o Ladri sull'homepage del Sole 24 Ore. Buona vita e a domani.